America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24. Da Washington, Mario Platero, sono venuto nella capitale americana per fare una chiacchierata con Alan Krueger, che è stato il presidente dei consiglieri economici dell'amministrazione Obama e dunque della Casa Bianca. Krueger ha una storia molto interessante perché intanto professore a Princeton di economia, ma ha lavorato al Dipartimento al Tesoro, prima occupandosi sempre di studi economici, per poi passare alla guida di questo importante supporto operativo logistico di Barack Obama. Alan, good morning. Good morning. Durante le riunioni del Fondo Monetario Internazionale lei ha partecipato a un convegno organizzato da Banca Intesa, si è parlato di problematiche internazionali ma anche di Italia. Ecco, parliamo di Italia. Noi dobbiamo fare delle riforme e queste riforme non arrivano. Secondo lei quanto è urgente che si proceda con delle riforme strutturali? Well, Italy has been in è urgentissimo. È incredibile che, tenendo conto dell'inflazione, il PIL italiano sia inferiore a quant'era nel 2001, prima dell'introduzione dell'euro. Ci sono stati progressi, ad esempio il deficit strutturale di bilancio è migliorato, ma le riforme servono per aumentare la produttività e per attirare investimenti anche esteri. Il mercato del lavoro è troppo rigido e credo che l'Italia abbia aspettato fin troppo per fare queste riforme. Nel mercato del lavoro che si diano degli incentivi per assumere, soprattutto i giovani. Poi il sistema giudiziario va riformato, è troppo lento e costoso e certamente non favorisce lo sviluppo di nuove imprese. E poi dovete riformare l'amministrazione pubblica che al momento è molto inefficiente. Ma c'è una paura che queste riforme possano portare ulteriore disoccupazione invece di nuova occupazione. È un rischio secondo lei? Hanno ragione i sindacati? I think change is never easy. Cambiare non è mai facile e l'Italia ha bisogno di un'economia più dinamica. Certo, c'è il rischio che le riforme vengano fatte male, ma prevedere per esempio un contratto di lavoro uniforme ma graduale in cui le buone uscite e le restrizioni sui licenziamenti evolvono con l'anzianità del lavoratore può certamente aiutare i giovani a mettere un piede dentro le aziende e cominciare un percorso lavorativo, cosa di cui l'Italia ha un gran bisogno. Ci sono poi grosse differenze regionali. Il Sud conta circa un quarto dei posti di lavoro, ma metà della disoccupazione di lungo termine. L'Italia però è regina dell'export, eccelle nella moda, nella meccanica di precisione, produzioni di macchinari e così via. Ma ci sono settori in cui l'Italia potrebbe investire. Il turismo, prima di tutto. Turisticamente l'Italia può offrire molto, ma il settore non ha la dimensione che dovrebbe. Le aziende tendono ad essere di piccole dimensioni. Possibile che la Spagna attragga il 25% in più di turisti dell'Italia e che sempre l'Italia abbia la metà dei turisti della Francia. Qual è la sua valutazione del sistema finanziario italiano, delle banche italiane? Ricevono liquidità dalla Banca Centrale Europea, ma poi c'è difficoltà a trasmetterla alle aziende. E perché l'economia non cresce o perché le banche sono molto più vigili? Magari hanno paura di regolamentazione eccessiva, maybe they fear excessive regulation. Ne sapremo di più quando il prossimo round di stress test sarà completato, ma credo che sia chiaro che il sistema bancario italiano ha troppi prestiti in sofferenza. L'FMI calcola che se l'Italia triplica la velocità con cui smaltisce questi prestiti, ci vorrà comunque un decennio prima che si torni ai livelli pre-crisi. Quindi c'è molto lavoro da fare. Le operazioni mirate di rifinanziamento a lungo termine, annunciate da Mario Draghi, aiuteranno. Certo, le banche non ne hanno approfittato come ci si aspettava, e quindi ci vuole un piano soprattutto per aiutare le piccole e medie imprese. Anche se le banche che vi hanno fatto ricorso sono minori di quanto sperato, secondo me si tratta comunque di un buon numero. Una differenza tra America e Italia? Da noi le aziende dopo la crisi hanno ritrovato una stabilità finanziaria. In Italia invece la maggioranza dei prestiti in sofferenza è nel settore aziendale. A livello europeo c'è bisogno di rafforzare l'unione bancaria per avere garanzie sui depositi a livello europeo, cosa che aiuterebbe anche l'Italia. È una situazione molto difficile, perché da una parte ci sono pochi investimenti e la domanda è debole. Dall'altra le banche sono preoccupate e faticano quindi a concedere prestiti. Comunque sia, spero che la presidenza Obama riesca a chiudere l'accordo per il commercio e l'investimento transatlantico entro 2 anni. Ma anche in assenza di un accordo, credo che l'Italia abbia la possibilità di aumentare il suo export verso gli Stati Uniti. L'euro è più debole e questo trend probabilmente continuerà. Il fondo calcola il 40% le probabilità di una recessione europea l'anno prossimo. Ecco, lei fa il forecaster per professione anche. Qual è la sua impressione? First of all, parts of Asia are doing well. Alcune regioni dell'Asia stanno facendo bene, altre stanno invece assistendo ad una brusca frenata. Sono appena tornato dall'India, dove sono stato un paio di settimane fa, e credo che l'economia indiana stia rimbalzando e potenzialmente questo rimbalzo potrebbe aiutare anche altre nazioni asiatiche. Il Fondo Monetario Internazionale ha previsto un 40% di possibilità di recessione nell'Eurozona. È meno del 50%, ma è troppo elevata per stare tranquilli. Altri paesi, invece, come la Gran Bretagna e la Svezia, fanno bene e avranno un ruolo di traino. Is it because they are out of the euro? Forse perché sono fuori dall'euro? I think there are a number of reasons. One is they have control of their currency. Certamente avere il controllo della valuta è senz'altro un vantaggio per combattere la recessione. Ma credo che le domande in arrivo dal Regno Unito e Scandinavia stiano aiutando il resto dell'Eurozona in qualche modo. E credo anche che ci siano misure che l'Inghilterra può prendere o altri singoli paesi europei che possano aiutare a ridurre le probabilità di una recessione. Bisogna agire con urgenza, perché il rischio del 40% è troppo alto. In particolare ci sono misure che la Germania potrebbe prendere per cercare di riequilibrare l'Eurozona e che potrebbero aiutare a rafforzare il resto dell'Europa. E alla fine è nell'interesse stesso della Germania, perché esporta moltissimo in Europa e avere clienti deboli non è nel suo interesse. E se il rallentamento arriva in Germania, forse vedremo un cambiamento nell'atteggiamento di Berlino verso la crisi. Ho i microfoni di America 24, Gian Maria Grosspietro, presidente del consiglio di gestione di Banca Intesa San Paolo, che la settimana scorsa era a Washington per i lavori del Fondo Monetario Banca Mondiale e che ha ospitato con la sua banca un interessante dibattito proprio sulle dinamiche di crescita europee, italiane, con l'economista Alan Krueger, con cui ho appena fatto una chiacchierata. Ecco, Krueger solleva alcune problematiche per il sistema bancario italiano. Dice che i prestiti in sofferenza sono ancora molto alti, che anche se si dovessero eliminare tutti ci vorranno almeno 10 anni. Insomma, sono delle espressioni di preoccupazione. E cosa risponde a Krueger? Ma dal punto di vista dell'agibilità del sistema bancario, questi prestiti in sofferenza non creano dei problemi di funzionalità. Certamente esistono, certamente hanno delle scadenze e ci vorrà del tempo perché arrivino tutti a scadenza, ma a fronte di questi crediti problematici le banche italiane hanno accumulato sufficienti accantonamenti anche in vista dell'asset quality review, e quindi abbiamo un grado di copertura che è soddisfacente e permette alle banche stesse di praticare una politica del credito adeguata alla domanda che ci sarà. Ecco, si è parlato di rischio recessione europea al Fondo Monetario, addirittura nel 40%. Condivide queste preoccupazioni, numero uno, e numero due, quanto sono urgenti, soprattutto per noi, per l'Italia, le riforme di cui continuiamo a parlare ma poi non arrivano mai? Le preoccupazioni ci sono e lo vediamo dal fatto che a fronte di una disponibilità di fondi a bassissimo costo, quali sono quelli del TLTRO che la Banca Centrale Europea ha messo a disposizione delle banche perché le trasmettano alle imprese, abbiamo poche domande di credito. Questa carenza di domanda di credito deriva dal fatto che le imprese non intravedono opportunità di investimento convenienti perché manca la domanda generale. Quindi bisogna riavviare il ciclo economico e per farlo è necessario che ci sia uno stimolo da parte dei governi e non solo della Banca Centrale. Questo stimolo può essere privo di rischi solo se vengono fatte le riforme strutturali che aumentano la competitività soprattutto di alcuni paesi che sono carenti e in particolare dell'Italia. Per chiudere, ricordando un'altra provocazione di Krueger, che la Germania faccia di più. La Germania le riforme le ha già fatte ed è in una posizione fiscale molto solida. Secondo lei non sarebbe importante un incoraggiamento da parte della Germania per cercare di stimolare le politiche fiscali europee? Io credo che sia necessario che la Germania faccia di più. È un merito della Germania quello di aver fatto le riforme e di proporsi a modello degli altri paesi europei che dovrebbero ancora farle. Ma questo l'ha resa molto competitiva e le ha permesso di accumulare un avanzo della bilancia commerciale rilevante rispetto al resto del mondo e anche rispetto ad altri paesi europei. Questo avanzo deve essere speso. È benissimo l'idea che ci debba essere una regola di pareggio di bilancio. Questa regola deve essere interpretata in funzione della congiuntura. In questo momento un paese come la Germania, che non ha problemi di finanza pubblica, io credo, il dovere nei confronti del resto dell'Europa e la convenienza per la propria salute economica a spendere di più. Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.